Buongiorno Willy, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. 4 marzo 89 è Golden State Warriors Sacramento Kings 155-143 per i ragazzi di San Francisco, e sarà la sfida nella sfida tra Mitch Richmond e Danny Ainge per The Rock. 47 punti e 9 rimbalzi, mentre per Danny Ainge 45 punti e 9 rimbalzi. Curiosità in questa partita, che si è conclusa senza overtime, i Warriors segneranno nel solo terzo quarto 56 punti, a tuttora ancora record NBA. Buongiorno a tutti. E che palla 2, grazie Paolo, buongiorno a te, buongiorno nuovamente a tutte le amiche e gli amici sportivi e non sportivi. 8:08 minuti e un graditissimo ritorno, Rookie of the Year, Pietro Rossi. Buongiorno Pietro. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte. Hai mai preso delle gran cantonate per quanto riguarda previsioni di atleti, partite? Su base quotidiana. E su base quotidiana, capita. Autocritica primo di tutto. E ovviamente perché dico cantonate? Perché il mio idolo Danny Ainge è stato una cantonata di Dan Peterson, che quando lo vide per la prima volta, intanto rookie e matricola per i Boston Celtics, disse: oh Danny Ainge, lui per me un brocco, ok, rissoso, un giocatore non certo da Boston Celtics. Iniziò subito con una palla rubata, apertura in contropiede, ok Danny Ainge, cosa buona. L'azione dopo prende un ribaltamento, mette un piazzato, oh, ho perso un'occasione per stare zitto, e subito ha trovato motivo di rivedere la sua opinione. Apprezziamo la sincerità, anche perché le cantonate sono alla base di una nostra quotidianità. L'importante è rendersene conto. Oggi vedremo di metterle a freno con un equilibrio, citando anche i nostri sbagli, perché per previsioni, per recensioni a proposito di atleti, per quelli che sono i pronostici sui risultati, ma soprattutto su quello che è invece una risposta portata da un equilibrio, non equilibrio nel senso fisico, nel senso di caratteristica atletica, proprio un equilibrio di carriera e di costanza in ambito sportivo, che poi si può tranquillamente trasformare nella nostra quotidianità. Quanto è importante essere equilibrati, Pietro? È fondamentale, no? È un fondamentale, direi. Da persona non equilibrata ti direi molto. Io ho portato questo Mood Groove proprio perché magari raccontandolo lo troviamo riusciamo a trovare un minimo di equilibrio. Lo troviamo anche noi un pochettino, hai capito? Allora, la colonna sonora tra funky, soul and jazz, che è la colonna sonora tipica del Mood Groove, ho voluto equilibrare anche questo dal brano dei 24 Karat Black, The Food Stamps, queste padelle. Come le abbiamo sempre questa tradizione del vernacolo, noi in bolognese quando ti macchi, non so, con un cibo particolarmente unto, si dice ti sei fatto una padella. Firenze si dice frittella. Beh. Food Stamps. Ecco qui che arriva la solo al sax contralto per quanto riguarda la reiterazione funky, ma anche la parte non scritta in jazz. A essere equilibrati è una domanda che spesso faccio ai musicisti in jazz live o non solo: quanto è la parte scritta e quanto è la parte dedicata all'improvvisazione musicale? E ovviamente in tutto ciò un aspetto equilibrato è determinante anche per il gusto e per la leggibilità del brano, come in questo caso dai nostri padelloni Tito Tim Padlè. Ti sei tutto macchiato dalle Food Stamps, il brano che stiamo ascoltando, macchie di cibo in questo caso, impronte di cibo. Per quanto riguarda la Toscana ti sei tutto infrittellato. Salutiamo anche le ascoltatrici e gli ascoltatori dal bellissimo Granducato, qui rappresentato da The Rookie of the Year, Pietro Rossi. Allora Pietro, ti dicevo fuori onda, l'ispirazione arriva da un'immagine enorme, bellissima, una fotografia di un giocatore molto importante per la normalizzazione cestistica, anzi per quanto riguarda il ruolo, certo completo, ma in particolare di point guard e shooting guard, quello che rispondeva a nome di Joe Dumars. Io la prima volta, primo anno, vedo Joe Dumars da rookie, dico no dai, questo è tristo, questo non è che sia chissà che cosa. Probabilmente ho detto questo perché troppo ordine, troppo voler fare quello che appunto bisogna fare, ma è un aspetto estemporaneo. E invece, beh, vuoi fare una piccola scheda tecnica di Joe Dumars? Joe Dumars, guardia, non particolarmente grande fisicamente anche per il tempo, perché comunque 1,90 m per... si dice sotto i 90 kg, 6 volte All-Star, ecco, quindi, come dire, non è esattamente un flop. Il suo l'ha fatto, addirittura leggevo quando mi hai detto, sono andato appunto a vedermi la scheda di Joe Dumars, addirittura top 10 dell'MVP un anno, non come dire una top 10 nel quale lui poteva vincere ovviamente, però comunque entrarci nei primi 10 della votazione dell'MVP non è male. Come giocatore... appunto, hai detto bene te, secondo me, che fa molto bene quello che deve fare, ma che non esce mai dallo spartito. E appunto, no, il move to groove, se ti piace un po' l'improvvisazione, diventa sì, difficile. E per quello probabilmente una volta ancora più estemporaneo, io stesso ho trovato in Joe Dumars questo eccesso di normalità, non di diversamente normale. Sai quando ho avuto la svolta per Joe Dumars? Quando in una partita importante, insomma, ovviamente ho guardato attentamente tutti gli atleti in campo e mi sono reso conto in fondo poi cosa ha fatto questo Joe Dumars. Da Super Basket della settimana successiva è uscito lo scout di Joe Dumars. Allora, 16 punti con 7 su 8 al tiro da 2, con 2 su 2 ai tiri liberi, 6 rimbalzi, 3 recuperi, una palla persa, una, cioè ha avuto una valutazione altissima e praticamente non me ne sono neanche accorto. Quindi di quei però giocatori, però 7 su 8 al tiro vuol dire, capito, che fai quello che devi fare. Hai fatto quel che devi fare ed è importante un giocatore nel contesto poi dei Detroit Pistons, esatto, che tra l'altro non dimentichiamo nel palmarès di Joe Dumars ci sono due titoli NBA da guardia titolare. Poi in un periodo secondo me abbastanza complesso a livello di talento, perché lui loro si inseriscono, no, fra i Bulls e i Lakers, nel dubbio, bravo, sì, ecco. Doveva smazzarsi anche un tale Michael Jordan, fra l'altro. Per cui insomma, anzi, io per il Dream Team legato alla normalizzazione cestistica con lo spartiacque 1986 in avanti, circa direi fino a inizio 2000, ecco, mettiamola così, sinceramente l'ho selezionato come guardia tiratrice, anche per dare un po' di equilibrio all'estemporaneità di Michael Jordan. Tra l'altro mi viene da sottoporti questa domanda: Joe Dumars è un normalizzatore anche nella vita? Perché comunque è stato un grande GM dei Pistons degli anni 2000, pensa, con lui hanno vinto un titolo, ora è sigle americane, Vice President of Basketball Operations, che vuol dire tutto, vuol dire niente, però ha un ruolo molto importante all'interno dell'NBA stessa. Quindi che lui sia un buon burocrate del gioco evidentemente era vero fuori dal campo come nel campo. E questo rappresenta un equilibrio, no? Evidentemente. Joe D, il classico giocatore che vorremmo sempre nella nostra squadra, presente in attacco, punti nelle mani, senza strafare, eccellente difensore, chiedere anche a Michael Jordan. Per me appunto dopo Jordan è la seconda e miglior guardia sì. NBA del suo periodo, meglio anche di gente come Clyde Drexler per me. E soprattutto non rompeva le scatole, faceva il suo e non si lamentava mai. Per questo è il classico giocatore che tutti i coach vorrebbero. Un vero campione. Tra l'altro lui, come Clyde Drexler, grandissimo giocatore, ci mancherebbe, però l'ho portato in posizione alternativa, diversa da quella che ricopre Joe Dumars, che come ha detto giustamente Paolo, per quanto riguarda l'aspetto di guardia metto secondo solo al grandissimo Michael Jordan. Sì, certo, un giocatore che non è diversamente normale, tutt'altro, anzi quel giocatore che non ti accorgi ma che alla fine ha dato un contributo eccezionale. E guarda un po', tutto ciò dalle notizie trovate da Pietro e così anche nella vita, a quanto pare. Guarda, sto secchione, ti vedo dire. Nella parte così di attinenza black music ho dato più spazio al soul con questo brano di Gary Bartz al contralto, Celestial Blues. We must get closer to the death of life. But be aware that it takes courage and pride. Sai che paradossalmente è più difficile l'equilibrio che l'eccesso, eh? Ma sì, assolutamente. È qualcosa che contraddistingue la nostra quotidianità, tra parquet e quotidianità. L'esperienza mi ha portato al termine dell'esperienza cestistica di iniziare, visto il prendere peso veramente in maniera importante, come ben sapete sono un'ottima forchetta, ahimè, certo, croce e delizia per quanto riguarda il piacere, ma la condizione fisica purtroppo ne risente, la schiena e quant'altro. Non sto certo a elencare le difficoltà nell'avere un appetito pantagruelico, però tant'è, arrivo a riprendere a fare sport da uomo di mezza età, quindi la corsetta, mi appassiono a questo. Fra l'altro pensa che in maniera totalmente autodidatta ho compiuto 10 mezze maratone. Non c'è da credere a tutto ciò, però veramente non c'è da credere, ma posso testimoniare. Perché? Perché è stato un eccesso, vedi, anche nel bene tutto ciò è stato un eccesso. Ho iniziato a seguire una dieta a base unicamente di verdura cruda, tanta tanta acqua, 2 o 3 litri di Levissima al giorno. Insomma, certamente il calo di peso è stato motivo di grande soddisfazione per la mia alimentarista nutrizionista, che in seguito però mi disse: ricordati che se continui così li prenderai tutti di nuovo e con gli interessi. E così è stato, perché l'equilibrio è quanto mai difficile da raggiungere, la parte più difficile di una dieta, il mantenimento. Che brutta parola, il mantenimento. Beh, in effetti non aiuta. Sembra, no, il mantenimento sembra quasi un aspetto parassitario, esatto, di essere mantenuto, hai capito? Mentre invece è fondamentale, appunto, probabilmente questa puntata di Mood Groove con aspetti relativi alla nostra vita e ai grandi atleti è qualcosa che denuncia anche una nostra mancanza. Beh, purtroppo è stata Cassandra, la nutrizionista, infatti, appena raggiunto l'obiettivo, perché poi da ex atleta cos'era importante per me? Raggiungere l'obiettivo, certo, dopo basta. Il risultatismo. Dopo basta, hai capito? Invece no, il difficile arrivava poi una volta raggiunto l'obiettivo. È come se Joe Dumars avesse detto: ok, sono stato scelto, ho vinto 2 anelli, adesso ok, vivo di rendita, mi diverto così. No, non è stato così. Che poi succede, ci sono i giocatori, sì, che dicono: ah sì, ho vinto il mio titolo, ora vado nella squadretta a sparare 33, certo, tiri a partita e a fare schifo, fondamentalmente. Poi non esageriamo, però ce ne sono quelli così. E come? Ed è l'inizio della fine molte volte. Every evening, fine morning, I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Cares and woes have got me moaning. Lord, I spend plenty of days and nights alone in my grief. Lord, I pray, really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every morning, find me moaning, 'cause of all the trouble I see, life's a losing gamble to me. Everybody knows I'm moaning. Giocavi in una squadra che di equilibrati, a parte lui, ce n'era veramente pochi, eh? Bobby Timmons, il compositore di questo standard jazz, in questo caso ho racchiuso anche lo standard jazz nella nostra playlist equilibrata, Moonin. Art Blakey l'ha portata con la formazione dei Jazz Messenger a un successo, in questo caso la versione è con la voce di Joe Hendrix, che ha dato un aspetto di vocal jazz allo standard Moonin. I'll be there, you're not that, it will you indeed. Beh, quei Detroit Pistons avevano una formazione stellare, da Bill Laimbeer, a proposito di eccessi, no? Un picchiatore, un giocatore che per me dal talento veramente importante, riconosciuto unicamente perché spaccava il naso, faceva dei ponti agli avversari, ma non era solo quello Bill Laimbeer. Bill Laimbeer un giocatore importante per l'aspetto anche esterno nel gioco da 5. Dennis Rodman alle prime armi, però già un rompiscatole fuori di misura, per non parlare di un Isaiah Thomas fortissimo anche lui, ma caratterialmente un po' particolare. L'arrivo di Mark Aguirre in questo caso invece porta equilibrio, esatto. Vedi nella formazione, aggiungendosi al nostro Joe Dumars. Quando parliamo di Joe Dumars, a me viene in mente, con le dovute proporzioni, portando il periodo di rivoluzione cestistica, il mio amato Dennis Johnson. Però cosa aggiungo a proposito di Dennis Johnson? Che lui veniva prima da Phoenix e poi da Seattle, anzi da Seattle e poi da Phoenix, come giocatore con 30 punti nelle mani, hai capito? Tanto più che l'arrivo di Dennis Johnson a Boston fu criticato. Noi prendiamo una guardia tiratrice, insomma, non è che è troppo accentratore, e invece la scelta di Red Auerbach si rivelò come al solito vincente, in quanto ha riportato allo stesso modo nella sua carriera un equilibrio, mettendosi a disposizione della squadra. Giocatore eccezionale. Sì, che poi è quello, come abbiamo detto qualche puntata fa, fece Harper ai Bulls. Cioè, Harper è passato da essere il primo violino dei Cavs della metà anni 90 a essere una persona che aveva 10 tiri a partita e poi secondo me è molto delle attinenze, vedi, nel ritrovare l'equilibrio. Esatto. Quello che è fondamentale, lo stiamo denunciando perché a noi ci manca, e quindi proviamo con una playlist musicale con questi atleti. Tra l'altro, in conversazione con voi, ascoltatrici e ascoltatori, al 333-180-9494. Ora andiamo in pubblicità, poi torniamo in diretta per vedere questi cambiamenti che riportano equilibrio. Tra Harper e Dennis Johnson è che Harper, tra virgolette, si è un po' sminuito. Dennis Johnson per niente. Can't step back at all. Trying hard to stay alive. You got me dangling on your string. Pulling every which way. All I can do is sing. All I can do is pray. You got me backed up against the wall. Can't step back at all, Lord. Got me backed up against the wall. Can't step back at all. Back up against the wall. Got me dangling on your string. Think you're gonna make me go your way. All I'm gonna do is sing. All I'm gonna do is pray. You got me backed up against the wall. Can't step back at all, no. Restiamo in equilibrio alle 8:36 minuti per questo rientro in diretta, seconda parte del Move to Groove con Pietro Rossi in studio, da remoto Paolo Onofri, la formazione al completo. A proposito di giocatori equilibrati, saluto il nostro collaboratore, co-redattore Paolo Zanardi. Zanna, lui da atleta, da cestista, era molto equilibrato. Ma dimmi te. Era un Joe Dumars. Non l'avrei detto. Sì, lui estremamente equilibrato. Grande Zanna. Anzi, in questo momento, guarda, se non fosse che giustamente lui sfruttava un pochettino il mismatch dal punto di vista fisico, lui ben infisicato, hai capito, non esile alla Joe Dumars, facendo sempre le adeguate certo. proporzioni, eh? Però come giocatore delle attinenze, sia nella capacità di portare palla allo stesso tempo, dare sicurezza alla squadra, avere punti nelle mani, ma saper essere quell'aspetto di chimica che riusciva a coinvolgere in maniera equilibrata il gioco, capito? Got me back up against the wall. Treat me like a fool. Can't step back at all. Ma l'equilibrato e poi così equilibrato, ad esempio da Zanna ne abbiamo un esempio, non è sempre così equilibrato, adesso mi sta ascoltando magari con le tira di tutti i colori, però abbiamo degli esempi che poi quello che troviamo di equilibrio non è poi un equilibrio che corrisponde, non tutti sono dei Joe Dumars, infatti forse dobbiamo iniziare, no, a vedere più equilibri sulla stessa persona, cioè, no? Certo, equilibrio nella pallacanestro, però nella fuori vita, no, nel lavoro, perché lo stesso Larry Bird aveva delle sue, ed è il massimo se vogliamo dell'aspetto di costanza, continuità. Tra l'altro abbiamo notato che per gli atleti dotati di maggiore equilibrio c'è un'altra caratteristica, l'appartenenza sempre alla stessa franchigia. Joe Dumars ha giocato solo nei Detroit Pistons, esatto. Larry Bird ha giocato solo nei Boston Celtics, Magic Johnson ha giocato solo nei Los Angeles Lakers, però tu hai portato un esempio, questo non molto equilibrato a no, quanto pare, però secondo me vincente, mettiamola così, anche se io penso di non averlo mai visto giocare. Allora io dirò una roba che suonerà fortissima, ma LeBron James rimane, come dire, sì, forse Karim, però Karim ha questi due stint molto netti fra sì, Bucks e Lakers, tra Milwaukee e Los Angeles. Invece sì, LeBron James ha quattro carriere fondamentalmente, che sono la prima ai Cavs. Ha vinto sì, un anello nei Cavs. Sì, ma non nel primo stint. Poi lui va a Miami, dove vince due anelli, torna ai Cavs, dove vince un altro anello, e poi va ai Lakers, dove ne vince un altro. Ed ogni era di LeBron James fondamentalmente ha un suo equilibrio molto accentrato attorno alla sua persona, al suo modo di giocare, certo, quant'altro, ma appunto si adatta, è come se lui riuscisse a piegare un po' il contesto, anche la franchigia, a quello che ai poi suoi vuole voleri fare, esattamente. E da quello che ho visto, quel po' che ho visto da LeBron James, io ho visto LeBron James fare 10 passi e non sto esagerando, sì, sì, prima di concludere in maniera assolutamente esplicita. E anche per questo motivo che ho portato, adesso si chiama hashtag questa attenzione, pensa che quando uscì quella specie di gioco tris davanti alla parola, perché ho sì, scoperto poi in seguito che sì, è l'hashtag, sì, cioè una sottolineatura, hai capito? E io volevo sottolineare il cambiategli nome, perché anche per demerito di LeBron James è diventato un altro sport, eh? Questo... Sì, secondo me, guarda, mentre preparavo la puntata pensavo a quanto, no, gli equilibri dipendano poi non soltanto da quelli che i cambiamenti li portano, esattamente, ossia i LeBron James, gli Steph Curry, eccetera, ma poi la massa. Dico un'altra parola: dal trend. Esatto, bravissimo, lì volevo arrivare. Ho pensato anch'io per arrivare alla conclusione, per come siamo equilibrati. Perfetto. The first thing in the morning. Poi vado a memoria, mi sa che Dumas è l'idolo di Zanna, tra parentesi. Sì. Posso dire che dalla sua LeBron James è il più grande GM mai visto in NBA. Uno che riesce a chiamare i giocatori più forti nella sua squadra. Then you better not drive now. Leave that bottle alone. Because one of them sports cars might tan your hide now. I say a hard head, make a soft spot now. Yes, sir, baby. Johnny Guitar Watson. A quelli che come noi non hanno esattamente questo equilibrio, you've got a hard head, hai proprio una testa dura, eh? Esattamente, allora alle 8:42 minuti, probabilmente era questa la chiosa che volevo portare, sono stato giustamente anticipato da un grande difensore. Per noi lunghi è difficile poi prendere posizione quando difende un piccolo che ha una grande mobilità perché riesce a spostarsi davanti, noi non troviamo base d'appoggio e anticipare, in questo caso ha anticipato piacevolmente il contenuto. Per quanto riguarda l'equilibrio poi diventa molto relativo quando intorno a tutto ciò troviamo una moda, un percorso, un trend. Aggiungo anche questa parola oltre che hashtag, pensa come sto diventando moderno. L'anglicizzazione completa. Sì, proprio ormai direi che non abbiamo più limiti. E infatti, tornando all'aspetto della dieta, pensa quante persone hanno poi un crollo dalla parte di un aspetto molto esasperato per la forma fisica, per il farsi vedere in determinate situazioni. Quando è arrivata la famosa tartaruga, hai capito? Sì, sì, esatto. Ma quando... stato, mamma mia, che trend non proprio positivo. Perché poi il trend diventa canone e lì è un po'... il trend c'è una rigidità diventa diversa. Canone. E infatti non ho visto solo LeBron James fare 10-12 passi. No, no, esatto, lui. Cambiategli nome, perché questo trend, se diventa canone, non è più pallacanestro. Io poi ho sempre sostenuto che se un uomo dopo i 30, a meno che non fosse un atleta oppure per motivi professionali, insomma, portava con sé la famosa tartaruga negli addominali, qualcosa che non andava, sospettavo. Non è sono possibile, d'accordo. Oltre i 30 sono ti d'accordo. Presenti in spiaggia con la tartaruga, non sei un atleta. Vuol dire che hai molto tempo libero. Vuol dire che hai molto tempo libero e vuol dire anche che dai precedenza a determinati esatto. aspetti che non sono dei fondamentali, secondo me. E diventa, per un principio, se vogliamo, apprezzabile, poi motivo di un aspetto squilibrato. Run away. Run away. Qual è la ricetta per essere equilibrati? Non lo sappiamo. Ditecelo. Ditecelo voi. Non lo sappiamo. Questa è la chiosa del Mood Groove di oggi. Abbiamo portato alcuni esempi, certamente anche di cantonate che noi abbiamo preso in maniera squilibrata. Però la ricetta per trovare l'equilibrio sarà ricchissimo chi la porterà alla portata di tutte e di tutti. Un po' come il motore perpetuo. Chi inventerà esatto. il motore perpetuo avrà trovato anche la formula per l'equilibrio. Mettiamo come copertina del format odierna l'immagine di Joe Dumars a questo punto, dai. Perché direi che anche meritata. Al di fuori, meritata peraltro, anche al di fuori del parquet ha poi trovato un motivo assolutamente importante, pur restando legato al mondo dello sport, certo. Quindi questo è un valore aggiunto ulteriore. E come equilibrio concludo con un aneddoto legato a un altro giocatore molto equilibrato, talentuoso, a me piaceva tantissimo, il sesto uomo dei Milwaukee Bucks, Junior Bridgman, un giocatore fortissimo, Giocava col numero 2, giocava da sesto uomo, lui entrava a grandi capacità per quanto riguarda la difesa e nello stesso tempo questa caratteristica di essere anche un grande tiratore, per cui mettere insieme in maniera moderna una difesa costante di tecnica e non di botte, allo stesso tempo una presenza per essere terminale offensivo, tiratore con punti nelle mani, beh, giocatore equilibrato, a me è sempre piaciuto tantissimo, Junior Bridgman dei Milwaukee Bucks. Quello che io non sapevo è che lui grande acume e grande continuità per gli affari. Lui è un businessman, diventa un businessman ed è veramente molto talentuoso anche in questo. Beh, lui prende una catena di ristoranti e appunto in una situazione di grande disponibilità provenendo anche dallo sport, lui che fa? Inizia a dar lo straccio intanto che il locale chiude, no? Si avvicina come chiusura così una mamma col bambino e vede questo afroamericano col cappellino in testa che sta portando lo straccio, butta via l'acqua già utilizzata, insomma così, e dice al bambino: vedi, se tu non studi ti riduci poi come quel personaggio lì a pulire per terra. Ex cestista NBA milionario. Al che si avvicina una cameriera e dice: guardi che non ha capito, parli piano perché è il proprietario della catena di ristoranti, ci sta dando una mano in chiusura. Ops. Esatto, Willy, tutto giusto. Il guai è che lui però ha investito con i suoi, diciamo, miseri quattrini di giocatore a discapito di gente come Jordan o Shaq, che guadagnava già dei milioni di dollari fitti, e si è creato un impero, uno dei più sì. ex giocatori più ricchi della storia contemporanea. È vero, ho messo questo particolare. Lui è diventato ricchissimo, non sì, aveva sì, un ingaggio non clamoroso. Essendolo prima, esatto. Esatto, è diventato ancora più ricco come businessman che come cestista. Consiglio a tutti gli ascoltatori di andare a vedere la faccia di Junior Bridgman, che io non avevo presente, sembra l'uomo qualunque. Cioè, il medio man. Esatto, il middleman perfetto. E alle 8:49 minuti puntualmente in equilibrio noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo Mood Groove. Ringrazio Paolo Onofri, ringrazio il nostro Rookie of the Year Pietro Rossi qua in diretta in co-conduzione, preziosa formazione per il Mood Groove, e l'appuntamento a domani sarà con il Voltiamo Pagina come ogni mercoledì. Vi auguriamo una buona giornata di anticipo primaverile, alle ore 7 mattiniere e mattinieri faremo colazione anche per la giornata di domani, già a metà settimana, il mercoledì, giro di boa della settimana. Vi lasciamo con Liberi Dentro, anticipato dalle Dipeo Enciclopedico. Non perdete il vinile quotidiano curato e condotto da Andrea Gozza dalle 10.30 alle 12.30. Ovviamente alle 9.30 ci sarà la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquale. Grazie Pietro Rossi, minuti di qualità. Tu sei l'equilibrio radiofonico, minuti sono di qualità. Grazie. Onorato, grazie. E Willy, poi arriva il nostro Paolo a mettere i due punti con, esatto, l'essenzialità. Paolo è il nostro punto. Robert Torri, io penso lui potrebbe apprezzare. Robert Torri. Sai che ho letto le statistiche di Robert Torri? Non ha quasi mai avuto delle stagioni in doppia cifra. Però ha vinto 7 titoli. Ha vinto 7 titoli. Beh, parleremo magari la prossima puntata di questo particolare atleta. E vi diamo appuntamento a domani per il Move to Groove a martedì prossimo, augurandovi una buonissima giornata all'ascolto di Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao, ciao, a domani.